con Rudy Gnutti, regista del documentario In the Same Boat, al cinema da giovedì 21 febbraio 2019, distribuito da Mescalito Film. Rudy, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti. Lo raccontiamo brevemente questo lavoro? Allora, In the Same Boat è un film prodotto in Spagna con la collaborazione pure del progetto media della Comunità Europea e che è uscito nei cinema spagnoli 3 anni fa. Può sembrare che sia ormai vecchio e invece no, al contrario, l'argomento è drammaticamente attuale. E per questo il film sta praticamente girando il mondo, dalla Russia al Messico, in Spagna, sono venuto anche in Italia. Il primo che mi invitò in Italia è stato l'economista Tito Boeri al Festival di Trento di Economia. Perché è così attuale l'argomento? Perché io sono regista, mi chiamo Rudy Gnutti, sono regista musicista, vivo a Barcellona in Spagna da ormai 35 anni, ma studiai pure antropologia culturale a Roma. E ebbi la fortuna di leggere un piccolo libro di un sociologo francese, Guy Asnar, che si chiamava come lo slogan del 68, lavorare meno per lavorare tutti. L'idea principale non era nuova, era l'idea della tecnologia avrebbe potuto cambiare tutto nell'economia. Lo disse Keynes, lo disse Marx, lo dissero in moltissimi autori, eppure Guy Aznar con questo piccolo libro. Io rimasi, devo dire, quasi è stata una mia mania iniziare a lavorare come musicista, antropologia neanche la finì, però ho letto tutto quello che usciva durante gli anni, per esempio Rifkin nel 92 mi sembra, che è un libro interessantissimo, ma molti altri autori, sul fatto che la tecnologia poteva dare la possibilità all'uomo e all'umanità di sostituire tutte le attività o gran parte delle attività produttive con le macchine. Però il problema enorme che già pensavano sia Keynes che Marx era però come potevano ridistribuire la ricchezza se il lavoro veniva fatto dalle macchine. Quindi, arrivati ai giorni d'oggi, il problema si porge in maniera urgente. Perché? Allora, io iniziai a fare il film perché vidi che al MIT a Boston stavano studiando questa, la conseguenza della tecnologia sul lavoro in maniera più scientifica, mentre prima erano tesi, erano intuizioni di vari pensatori, adesso invece gli studi erano molto più scientifici e appunto descrivevano il fatto che più aumentava la produttività in tutti i campi, più aumentava anche la disoccupazione. E questo è stato il mio. Allora, pensavo che intervistare tutti questi grandi pensatori, questi grandi studiosi dell'argomento sarebbe stato interessante. Ci sono professori economisti dell'MIT, ho intervistato uno dei maggiori economisti sulla disuguaglianza, che era il professor Tony Atkinson, che è morto l'anno scorso, ma cercavo pure un personaggio che avesse una capacità di trasmettere e di osservare questi cambiamenti e parlai con il sociologo Zygmunt Bauman. Lui, insieme all'ex presidente uruguaio José Mujica, sono un po' i pensatori che accompagnano in tutto il film e riescono, io direi, a spiegare in una forma molto molto semplice, ma anche emotiva, soprattutto emotiva, se conoscete José Mujica e la sua capacità di trasmettere questi sentimenti, e quindi accompagna in tutto il film questi ragionamenti importantissimi di questi economisti. Quanti sono stati i tuoi interlocutori? Sono una decina, però devo dire, io dividerei in tre tipi. Prima questi grandi guru, che Tony Atkinson, l'economista, José Mujica, non come politico l'ho chiamato come una personalità che è capace di trasmettere una filosofia, cioè le idee molto chiare e una grande capacità di trasmetterle, e poi il sociologo Zygmunt Bauman. Poi ci sono invece gli economisti più preparati sull'argomento, da Mariana Mazzucato, lo spagnolo Daniel Reventós, esperto della renta basica o del basic income. Poi ci sta Roger Bregman, un giovanissimo storico olandese che adesso, 15 giorni fa, è diventato molto importante, lo era già, perché andò a Davos e disse ai più ricchi del mondo che è inutile che vadano lì con i loro aerei privati, quello che dovrebbero fare invece è pagare le tasse, e quella è la cosa più importante. E ci sono appunto la Mazzucato, Bregman, ci sta Erik Brinkholston, uno dei grandi specialisti sullo sviluppo tecnologico e sulla relazione con l'economia del MIT in Boston. Insomma, ci sta un altro economista importantissimo, Serge Latouche. Rudy, questi esperti individuano delle soluzioni? Io prima di tutto devo dire che il film è strutturato in maniera per rendere il concetto molto semplice o almeno digeribile, e anche cinematograficamente digeribile, nel senso che non ho voluto fare un reportage normale, proprio un film in questo senso. E quindi è diviso in parti, in sezioni, è diviso in capitoli. All'inizio parliamo della globalizzazione per descrivere come ci troviamo e perché ci troviamo in questo momento così, poi del fenomeno della disoccupazione, della tecnologia, eccetera, dell'enorme disuguaglianza che si sta creando, e andiamo piano piano verso una proposta finale. Qual è allora? Nessuno può dire oggigiorno qual è la vera soluzione, ma tutti credo che sono convinti che in qualsiasi caso, come dice Bauman, o si trova un sistema economico che si adatta alla nuova realtà, allo sviluppo tecnologico, o non possiamo utilizzare i meccanismi che si utilizzavano un tempo per risolvere un problema completamente nuovo. Che anche se si dice no, ma la stessa cosa era già successa nei primi della rivoluzione industriale, ma la storia sembra che si assomiglia, ma non ripete esattamente la stessa cosa. Adesso la rivoluzione che stiamo vivendo è molto, molto più complessa e siamo ancora all'inizio. Credo che quasi tutti arrivano alla conclusione che evidentemente forse bisognerà dividere la connessione tra la distribuzione della ricchezza solo attraverso il lavoro, perché quando il lavoro sarà sempre di meno, e lo è già, non sarà possibile continuare a pensare che la distribuzione e redistribuzione della ricchezza possa avvenire soltanto tramite il lavoro. Rudy, in quante sale sarà il documentario? Questo documentario abbiamo fatto un'esperienza in Spagna, nel senso, in Spagna noi abbiamo, io questo documentario l'ho visto e mi hanno accompagnato da collettivi tipo Demos in Andalusia fino, l'ho fatto vedere alla Banca d'Italia qui a Roma, per dire proprio, mi ha accompagnato per esempio in Spagna Íñigo Errejón, il numero due di Podemos, ma però mi hanno accompagnato anche personaggi che non sono esattamente né di sinistra, propriamente di sinistra. In Spagna abbiamo fatto un sistema che era, portavamo il film in una sala e normalmente creavamo sempre un dibattito, va sempre accompagnato da un dibattito, a volte sì, a volte no, l'abbiamo fatto vedere in moltissime città, e si era creato un avvenimento stranissimo. Ogni giovedì facevamo così a Barcellona e si crea. Io invitavo un filosofo o altri personaggi per creare questo dibattito, e si crea una fila enorme di persone. Quindi abbiamo voluto un po' rifare la stessa cosa qui in Italia, grazie a Mescalitos, quella di organizzare una specie di piccolo tour per l'Italia, dove andrò e mi accompagneranno personaggi molto, molto importanti. Il sociologo Domenico De Masi, qui a Roma mi accompagnerà il 22 febbraio al Farnese, il 23 mi accompagnerà il presidente degli uffici nucleari Fernando Ferroni, il 20, adesso sto dicendo un po' di date così, la sociologa Chiara Saraceno mi accompagna a Torino. Poi mi accompagneranno Tito Boeri a Milano, mi accompagnerà il sindaco Orlando in Sicilia. Ho cercato personaggi che abbiano la voglia di entrare in un discorso così complesso e che abbiano il coraggio soprattutto, perché per un personaggio pubblico entrare in un discorso e magari dire, sostenere che un futuro non può promettere nessuno il lavoro, ma bisogna cambiare proprio l'idea del lavoro, non è facile. Andrà comunque, e io credo adesso abbiamo organizzato questi dibattiti in più di 15 città, mi sembra, e poi il film comunque andrà da solo in diverse parti d'Italia, credo una ventina di città. Ecco, per saperne di più sul calendario, di proiezioni, ci lasci dei riferimenti internet? Per saperne di più, vi consiglio di entrare su Facebook, entrare o nella pagina della distribuzione cinematografica Mescalito Screen, o se no, direttamente in the same boat di Facebook, nella pagina di In the Same Boat, lì avete pure il calendario dei vari dibattiti e delle varie città dove andremo in giro. Non dimentico, dato così l'argomento è così importante, come lo dimentico sempre, però la musica, io sono musicista, l'ho composta io, ma in un pezzo che ho fatto vedere il film a Manu Chao, che vive a Barcellona, Ah, ah. E lui mi ha ceduto uno dei pezzi suoi. allora ricordiamo l'uscita in sala del documentario In the Same Boat al cinema da giovedì 21 febbraio 2019, distribuito da Mescalito Film. Un saluto e un ringraziamento al regista Rudy Gnutti. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie a tutti.